Re Barba Brutta. Molto tempo fa vi era un regno governato da un grande re. Aveva una figlia meravigliosa che voleva far sposare. Tuttavia la principessa, sebbene molto bella, era molto orgogliosa e aveva un brutto carattere. Il re aveva fiducia nel fatto che una volta sposata lei sarebbe cambiata. Però la principessa non si comportava seriamente e trattava male tutti i principi che la corteggiavano. «Cari amici, nobili re e principi, ora mio figlio vi riceverà!» «Questo è basso, troppo grasso, tondo come una chinozza, troppo alto, un albero della cuccagna, troppo basso, sembra un raviolo!» La principessa aveva una battuta pronta per ogni re, principe, duca e conte. Suo padre, il nobile re, era arrabbiato, ma rimaneva in silenzio fin quando la principessa insultò un certo buon re con la barba. «Guardalo! La sua barba è come una vecchia scopa. Dovrebbe chiamarsi Re Barba Brutta!» «Come ti permetti? Come osi insultare tutti questi nobili uomini? Ho deciso che sposerai la prima persona che varcherà questa soglia, che sia un principe o un mendicante!» Presto, nell'arco di 2 giorni, il re realizzò il suo desiderio. Un suonatore passò dal giardino, suonando il flauto e mendicando. Questo catturò l'attenzione del re, che ordinò alle guardie di andarlo a prendere. Come aveva detto, chiamò la principessa per farla sposare al suonatore. Questo fu scioccato ma felice. La principessa pianse e protestò. Ma il re non l'ascoltò e si assicurò che il matrimonio fosse celebrato. Dopodiché ordinò alla nuova coppia: «Ora preparati a partire. Non devi rimanere qui. Devi viaggiare con tuo marito.» E così il suonatore e sua moglie lasciarono il palazzo per andare nel mondo sconosciuto. Viaggiarono a lungo e duramente. Dopo alcuni giorni raggiunsero una bellissima foresta. «A chi appartiene questa bellissima foresta?» «Appartiene al grande re Barba Brutta.» «Oh, che sciocca che sono!» Continuarono il loro viaggio e raggiunsero un grande prato. «A chi appartiene questo bellissimo prato?» «Appartiene al grande re Barba Brutta.» «Oh, che sciocca che sono!» Poi raggiunsero la grande città. «E a chi appartiene questa bellissima città?» «Appartiene al grande re Barba Brutta.» «Oh, che sciocca che sono! Non avrei dovuto rifiutarlo.» «Perché continui a dirlo? Non sono un marito abbastanza buono per te?» La principessa andava avanti finché arrivarono al limite della città in una casetta solitaria. La principessa ne fu inorridita. «Oh mio signore, questa casa è così piccola! Dove sono i tuoi servi?» «Servi? Mia cara, tu ed io dobbiamo fare tutto da soli. Non ci sono servi.» Il cibo era poco e finì rapidamente. La principessa faceva fatica a cucinare perché non era abituata. Il suonatore la aiutava. Il suonatore poi tagliò della legna dal bosco e le chiese di tessere delle ceste. Lei ci provò, ma le sue dita si tagliavano di continuo. Il suonatore gemette di rabbia. «Non sai cucinare? Non sai tessere le ceste? Che cosa sei? Una buona a nulla! Devo trovarti qualcosa da fare.» Quindi il povero suonatore sistemò alcune pentole e padelle e fece un banchetto in strada perché sua moglie le vendesse. Grazie alla sua bellezza, molte persone andarono a comprare le pentole e ne comprarono e comprarono nei giorni successivi finché un giorno lei decise di spostare il banchetto in mezzo alla strada e un soldato ubriaco arrivò al galoppo e distrusse tutto. La principessa aveva il cuore spezzato e cominciò a piangere. cosa ne sarà di me? Cosa dirà mio marito? Corse verso casa e raccontò tutto a suo marito. Quanto devi essere sciocca per aprire un negozio in mezzo alla strada? Non sei in grado di fare nemmeno questo lavoro. Sono andato a palazzo e ho chiesto se vogliono una serva in cucina e hanno detto che ti prenderanno. Ora lavorerai come serva. Così la principessa lavorava in cucina e faceva tutto il lavoro sporco. Doveva pulire il pavimento, i camini, i forni, le pentole e gli utensili. Alla fine di ogni giornata, però, riusciva a portare della carne a casa. Questo andò avanti per alcuni giorni. Poi apprese che era stato annunciato il matrimonio del figlio maggiore del re. Vide l'eccitazione in tutti, ma lei non riusciva ad essere felice. Arrivò il giorno delle nozze. I preparativi erano a buon punto. Lei andò alla finestra per vedere la folla e sussurrò: se solo non fossi stata così orgogliosa, avrei potuto sposare il re Barbabrutta. Che cosa ho fatto? Ho sentito forse il mio nome? Oh, caro re, vi pongo le mie scuse. Mi ferisce farmi vedere così da voi. Oh, non preoccuparti. Non sono solo. Vieni con me. Portò così la principessa nella sala cerimoniale, dove tutti i nobili, incluso suo padre, erano presenti. Risero tutti vedendo le sue condizioni e lei si sentì molto addolorata. Mi dispiace di essere stata così scortese con tutti voi. Ho imparato la lezione. Non ti preoccupare, cara principessa. Sono il suonatore che ti ha sposata e ho vissuto con te per tutti questi giorni. Sono il soldato che ha distrutto tutte le tue pentole e padelle. Ho fatto tutto questo per farti capire che l'orgoglio è un grande male e la peggiore qualità da avere nel cuore. Hai imparato la lezione e il tuo orgoglio è sparito. Vieni, mia regina, prendimi per mano e sii mia moglie. Così si sposarono nuovamente e vissero felici e contenti. Fine.